Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tra fughe di notizie e indiscrezioni, il caso De Marò sta assumendo connotazioni che, se non fossero terribilmente serie, sarebbero grottesche. Il Times of India oggi riporta in auge l'ipotesi, già avanzata e smentita più volte, che ai due fucilieri della Marina italiana potrebbe essere applicata la legge sulla pirateria, che prevede la pena di morte. Il ministro degli esteri Bonino, a Bruxelles per parlare del caso Marò con le massime cariche comunitarie, evita commenti sulla notizia. Ma è ormai evidente l'irritazione italiana che, dopo 24 mesi di rinvii, contraddizioni e promesse mancate, ora chiede una svolta. Anche la Corte Suprema indiana ha chiesto al governo di New Delhi di trovare entro 2 settimane una soluzione per sbloccare lo stallo. A 2 anni dalla morte di 2 pescatori indiani, le indagini non sono state infatti conclusive. La morte conclusive. Di 2 pescatori indiani è avvenuta il 15 febbraio 2012 nel Mar Arabico, al largo della costa di Kerala, al sud dell'India. Operazione per cui sono stati prima indagati per omicidio, poi arrestati 2 sottufficiali della Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Da allora loro sono, per l'opinione pubblica, i due Marò. La vicenda dei due Marò si è frastagliata nell'opinione pubblica, a volte ha avuto evidenza, a volte è stata dimenticata. In questo momento sembra che il paese sia d'altro affaccendato. Però a me inquieta abbastanza il titolo che vedo oggi sul giornale: l'India vuole impiccare Marò, e il fatto che nella disattenta opinione generale più appassionata sulle vicende di Renzi, Renzi e Berlusconi, Letta Renzi e Berlusconi, Napolitano Letta Renzi e Berlusconi, che sono senz'altro importanti discorsi da fare al bar davanti a un caffè, davanti a un bicchiere di vino, ma in questo caso si parla di due soldati italiani che si trovano in stato d'arresto in un paese lontano, indecifrabile come l'India, da cui vengono notizie tra le più brutali di donne ammazzate, donne bruciate, gente scannata, quindi un paese che non va tanto per il sottile. E questa ipotesi, che sembrava lontana, appena ventilata, subito ricusata come propaganda antigovernativa, che possano essere comunque impiccati, in qualche maniera, se ha un fondamento di concretezza e realtà, mi inquieta. Io sono sempre stato contrario, considerato una sorta di esagerazione propria della nostra ipocrisia nei confronti dei fatti che riguardano la vita e la morte, che per ogni soldato italiano morto in missione all'estero si facessero funerali di Stato, ci fossero foto sui giornali. Chi sceglie di fare il soldato sa che prenderà un fucile in mano, si troverà di fronte a altre persone con un fucile in mano, nella migliore delle ipotesi, quando si tratta di cinture esplosive, di missili, di razzi e di bombe, e sa che comunque fa parte del suo mestiere essere ucciso o dovrà anche uccidere. Ma la vicenda dei Marò è molto diversa. La vicenda dei Marò è una vicenda che ha delle complicanze nel diritto internazionale, nell'economia, nelle pieghe nascoste dell'economia, che forse vale la pena questa mattina, nella limitatezza del tempo che ho, cercare di fare un punto. Fausto Biloslavo, buongiorno. Buongiorno. Fausto Biloslavo è il collega del giornale che segue da sempre in maniera capillare e appassionata questa vicenda. Insieme a Riccardo Pellicetti fece uscire anche un ebook intitolato I due Marò, che era allegato al giornale, e che oggi è quello che riprende in maniera più concreta in mano questa vicenda. Fausto, come stanno esattamente le cose? Non è la solita questione che si tira fuori per diciamo avere comunque una possibilità di interferire nell'ordine generale, nelle questioni istituzionali, o realmente sei concretamente e sinceramente convinto che ci sia questo pericolo, cioè che i due Marò siano impiccati, che sarebbe un paradosso nella sua crudezza assolutamente insostenibile? Allora, io non voglio neanche pensare ovviamente che i due Marò finiscano sulla forca, però il dato di fatto che è venuto fuori ieri sul Times of India, che è uno dei quotidiani più seri, più attendibili dell'India, è che il Ministero degli Interni, dopo settimane, mesi di palude giudiziaria, venerdì sera avrebbe dato il via libera alla polizia antiterrorismo che indaga sul caso caso di Marò, di applicare questa famosa, famigerata legge antipirateria che prevede la pena di morte, ma prevede solo la pena di morte, nel senso c'è una riga di questa, di questo suo act, di questa legge, che dice in mare se si commette un omicidio questo deve venire punito con la morte, con la pena capitale, e lo dice molto chiaramente. Come da noi al tempo del brigantaggio ci ha fucilati sul posto, impiccati sul posto. Una cosa del genere, una legge speciale. Una legge antiterrorismo, probabilmente. Una legge speciale. Ora, ribadisco che anche se venisse applicata, io non voglio, ma neanche immaginare, insomma, che ovviamente ci sia una condanna a morte e tantomeno che i Marò salgano mai sul patibolo. Però già il fatto di evocarla, no, è chiaro che è una situazione sostenibile, insomma. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, però tu ti ricordi qualche mese fa, quando fu per la prima volta ventilata questa ipotesi, quasi ci si rideva dietro, cioè, ma no, non è possibile, un'esagerazione, si fa per propaganda. Oggi ci avviciniamo sempre più a qualcosa che comincia a diventare plausibile, però. Oggi purtroppo rischia di diventare più concreta, almeno secondo le rivelazioni di stampa indiana, che non sono state smentite. L'unica cosa che il Ministero dell'Interno ha anche detto è: noi abbiamo dato il via libera anche perché non possono fare altro, come forse la professoressa che è anche in collegamento, poi l'esperta vi spiegherà, non possono fare altro perché la polizia antiterrorismo può applicare solo questa norma, non può applicare il codice penale indiano, che invece prevede tutta una gamma di condanne e così via, di casistiche, può applicare solo questa norma la polizia che sta indagando, che è una polizia speciale pure quella, sul caso dei Marò. E quindi cioè, il pericolo che venga applicata questa norma è concreta, ma lo stesso Ministero dell'Interno indiano ha detto: però vediamo anche cosa decide la Corte Suprema. Per questo l'Italia già la scorsa settimana ha fatto una petizione alla Corte Suprema proprio per bloccare questa norma, per dire no, non potete applicare una legge che prevede la pena di morte, perché questo sarebbe comunque un oltraggio. Una tua opinione su un piano più generale, poi sentiremo la persona che tu hai accennato, che abbiamo in collegamento, che ci darà quello che sono veramente i termini del diritto indiano, italiano, internazionale in questo caso. Tu come la vedi la questione? È un braccio di ferro che viene fatto? Quindi sappiamo sempre che dietro la questione Marò ci sono sempre state le vicende di tipo economico, di accordi internazionale, sì, via dicendo. Sono stati, poveracci, un po', diciamo, il punto di frizione di qualcosa molto più grosso di loro. Se ne sono tornati da bravi soldati contro ogni ragionevolezza, che io, ma nemmeno se mi ci portavano in catene, sarei tornato in India una volta tornato in Italia. Comunque sono tornati in India, ligi al loro dovere, al loro senso dell'onore. Ma adesso, in questo momento, quale potrebbe essere, se vogliamo fare una minima dietrologia, diamoci questa possibilità? No, in questo momento invece neanche una dietrologia, ma un dato di fatto, la testa di Marò si sta giocando sul piano politico interno indiano. Ci saranno delle elezioni cruciali nazionali a maggio, a primavera. Il partito nazionalista indù, che viene dato dai sondaggi come favorito, ha già detto da tempo che vuole la testa di Marò. Sono loro che lo scorso anno hanno imposto al governo di mettere tutto il caso nelle mani di questa polizia speciale che si chiama NIA, insomma una sorta di polizia antiterrorismo, e quindi è grazie anche a loro che siamo arrivati a questo punto. Quindi è una questione politica interna. Quindi diciamo un'ala integralista indù si farebbe forte del fatto che, come partito dell'ordine, prima cosa giustizia nei Marò, anche perché sono italiani, hanno qualche legame comunque con la signora Gandhi, probabilmente, non so bene esattamente come possa essere la questione, anche su questo può contare l'etnia. È abbastanza semplice: la leader del congresso, cioè il partito al potere, che il BJP invece, i nazionalisti indù, vogliono scalzare, è Sonia Gandhi, che ha origine italiana. Quindi qualsiasi cosa che riguarda l'Italia viene, soprattutto in questo momento preelettorale, utilizzato per fini politici e di propaganda interna. È anche vero che però qualcuno dice: ma lasciate pure vincere gli indù e questo loro leader nazionalista che si chiama Narendra Modi, perché è un uomo pragmatico, storico, adesso utilizza questi toni, poi quando va al potere risolve il problema dei Marò. Speriamo che sia così, ma non è che possiamo stare a guardare. Un'ultima cosa, tu che hai seguito con attenzione le cronache, quando vennero restituiti all'India i Marò, non c'era stata una sorta di rassicurazione scritta che non li avrebbero impiccati? Te la radicalizzo per far capire meglio agli ascoltatori. Sì, c'è stata proprio una lettera scritta dalle autorità indiane, in realtà purtroppo poi firmata sembra dal segretario dell'ambasciata qua a Roma, ma insomma che rappresentava quantomeno il Ministero degli Esteri, e difatti c'è grande attrito e confusione fra il Ministero degli Esteri e il Ministero degli Interni, anche penso per motivi proprio appunto di propaganda politica e di gioco politico interno indiano, a tal punto che la Corte Suprema proprio ieri ha detto al governo: beh, ma insomma mi sembra che siete un po' confusi, decidete cosa volete fare e dite chiaramente il 3 febbraio come volete processare i Marò, con quali accusi, con quali leggi. Bisognerà vedere se il 3 febbraio appunto alla fine la spunterà il Ministro dell'Interno, che ha già dato via libera a far applicare la legge cosiddetta del patibolo, cioè quella antipreteria. Allora fermati un attimo. Professoressa Elena Sciso, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ordinario di diritto internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche della LUIS Guido Carli di Roma. Ho fatto fare il quadro, diciamo, della cronaca al collega, adesso entriamo nell'ambito del diritto. Questa possibilità secondo lei è ventilabile, è possibile, ipotizzabile, o rientra in una sorta di braccio di ferro che si fa in un momento di tensione politica preelettorale? La pena di morte, lei dice, c'è, cioè sì, la possibilità, sì, che venga il passaggio, diciamo, al braccio dell'antipirateria, che non avrebbe altra possibilità che impiccarli, perché quella è la legge. Dunque, diciamo che questo suo act, cioè questa legge che dà attuazione in India alla convenzione del 1988, prevede effettivamente la pena capitale per questo tipo di reati. Il problema è se è applicabile effettivamente questa convenzione, e quindi l'atto di esecuzione a questo incidente, e la risposta verosimilmente è no, leggendo bene la convenzione e soprattutto inquadrandola nel contesto storico. Questa convenzione è stata negoziata nel 1988 a margine del caso dell'Achille Lauro, che lei sono sicura ricorderà, certo, perfettamente. Il terrorismo vero, non erano dei militari, esatto, che hanno sparato, esatto, in un'operazione, diciamo, esatto, di accompagnamento contro dei pescatori, esatto, sbagliando, forse. Quindi assolutamente questa convenzione mira a reprimere gli atti illeciti contro la navigazione marittima, contro la sicurezza della navigazione marittima, e in primis ovviamente atti terroristici. Fra l'altro, tra insomma i reati si parla chiaramente di atto illecito e intenzionale, quindi ci deve essere anche l'intenzionalità di commettere quell'atto, un atto di violenza contro una nave o contro le persone che si trovano a bordo della nave. Aggiungo una cosa: questa convenzione non si applica naturalmente alle navi militari, oppure alle navi militari di uno Stato, le navi cioè non militari di uno Stato, che però sono impiegati in attività non commerciali. C'è anche un protocollo che è stato firmato nel 2005, il quale espressamente esclude che questa convenzione possa applicarsi agli organi dello Stato, di uno Stato parte, nell'esercizio della loro attività. Purtroppo né l'Italia né l'India sono parte di questo protocollo del 2005. Quindi fermiamoci solo un istante con la professoressa Elena Sciso, solo pochi secondi per le informazioni del traffico, anche perché mi viene da pensare che in questa grande ambiguità comunque c'è sempre spazio e margine per qualunque ipotesi. Fra un istante. Ci sono due fattori fondamentali, è una situazione ancora più strana qui in Italia, ovvero fattori fondamentali: abbiamo il forte dubbio che i Marò siano stati venduti per accordi economici di un anno e mezzo addietro. L'altra questione è quella politica, perché in India ci sono le prossime elezioni e Sonia Gandhi, di origine italiana, è diventata chiaramente l'ostacolo di alcuni partiti nazionalisti che stanno utilizzando i connazionali della Sonia Gandhi, quindi due Marò italiani, come punto, diciamo, per combattere il partito di Sonia Gandhi. Questo è Di Stefano, un parlamentare del Movimento 5 Stelle, che dice, appunto, riferisce in Parlamento all'ipotesi che abbiamo già toccato in questa trasmissione, che ci siano dei motivi, delle profonde e palesi anche dietrologie rispetto a questa vicenda. Vi do un attimo conto di quelli che sono gli SMS, per il valore che possono avere, però danno il segno di una sorta di manichea idea presa di posizione. Qualcuno dice: questi due sfigati hanno ammazzato due persone innocenti e disarmate, non essere giudicati in India come andavano giudicati Italia e militari USA del CERMIS. Siamo sicuri sono colpevoli? Un altro dice: un processo non c'è stato. Un altro ancora: gli indiani non ci stanno coglionando, basta. Si può capire quale motivo abbiamo ucciso due persone, che lo sarebbe importante saperlo, poi capire la responsabilità di chi ha deciso queste operazioni e via dicendo. Mi ero interrotto con la professoressa Elena Sciso, che ricordo ordinario del diritto internazionale nella facoltà di scienze politiche della LUIS Guido Carli di Roma. Professoressa, se ho capito bene quello che ha detto lei, però, che è tutta materia da avvocati, nel senso che comunque sia, se andasse a un dibattimento non ci sarebbe una certezza così matematica, né... No, assolutamente. Devo dire che per l'India è quasi necessario, quasi indispensabile ricorrere a questa legge di esecuzione di questa convenzione, perché ricordiamoci che l'incidente è avvenuto al di fuori delle acque territoriali indiane. L'India afferma la sua giurisdizione, ma non ha una base certa nel diritto internazionale per affermare la sua giurisdizione, e l'unica base la trova proprio in questa convenzione, perché questa convenzione si applica se la nave in questione, da cui è partito il colpo o da cui è partito l'attacco, naviga al di là del limite esterno del mare territoriale dello Stato interessato. Quindi se l'India vuole affermare la sua giurisdizione non può verosimilmente che fare riferimento a questo accordo internazionale e alle leggi interne di esecuzione. Le farò una domanda che se le sembrerà ingenua, professoressa, ma chi garantisce, Maro, che se il processo si fa in India, se la situazione è quella che ha riferito il collega del giornale, che c'è una tensione preelettorale, un partito integralista, una signora Gandhi che rappresenta l'antagonismo, l'India è un paese da cui le cronache ogni giorno ci portano non certo un rispetto così, così reale del diritto e del rispetto alla persona, quale organismo internazionale garantisce che ci sia un regolare processo e i Maro siano garantiti? Difficile darle una risposta nettamente positiva a questa domanda, purtroppo. Il punto è che gli errori del passato ci hanno messo in una situazione estremamente difficile, in una situazione estremamente complicata, perché i nostri Maro sono in India. È vero che sono ospiti dell'ambasciata italiana, potrebbero teoricamente rimanere in ambasciata, non uscire e non presentarsi nemmeno al processo. Dubito che l'India arrivi a violare i locali diplomatici, quindi la sede dell'ambasciata italiana. Ma rimangono lì tutta la vita, questa è l'alternativa. Appunto, ecco, il problema è questo. No, c'è anche la possibilità di in qualche modo spingere l'India a accettare una soluzione della controversia internazionale che indubbiamente esiste con il nostro paese, con i mezzi pacifici che possono essere negoziati, ma anche la mediazione del segretario delle Nazioni Unite, per esempio. Ma perché non si è chiesto espressamente a Ban Ki-moon di mediare nell'ambito di perché, questa secondo lei? Controversia? Bisognerebbe chiederlo alle nostre autorità. Gli errori sono stati fatti, sono tanti. Diciamo, non si è voluto molto sbilanciare nessun governo su questa questione, perché era un po' troppo complessa da gestire, diciamo, non era nelle priorità, forse è questo. Forse non era nelle priorità, però voglio dire, potremmo anche finalmente come paese, anche individualmente parlando, potremmo cominciare a sviluppare un'azione un po' più incisiva anche a livello diplomatico. C'è stata la proposta del vice commissario Tajani perché insomma l'Unione Europea intervenga, ventilando anche la possibilità di sospendere questo negoziato con l'India per la conclusione di un accordo onnicomprensivo in materia di libero scambio. Bene, lì l'Italia dovrebbe poter far valere la sua voce come paese fondatore, come paese membro dell'Unione Europea, e quindi quando si dovesse verificare una svolta non positiva in India, impedire la ripresa di questo negoziato, comunque bloccare questo negoziato. Può farlo, dovrebbe farlo, ma ci auguriamo tutti che la situazione possa essere invece superata e che anche grazie all'intervento della Corte Suprema il governo dell'India attui un atteggiamento, ponga in essere un atteggiamento un po' più rispondente agli obblighi internazionali. Aggiungo una cosa: si parla tanto del rischio della pena di morte ed è giusto anche soffermarsi su questo. Per questo motivo i Maro non avrebbero dovuto rientrare in India, né la prima né la seconda volta. Era d'accordo che non sarebbero dovuti tornare, ecco, questa è la posizione. Una volta qui, poi avrebbero giudicati, intanto stavano qui. Certo, sarebbe stata la magistratura italiana a giudicarli. Ricordo che quando sono venuti in Italia la prima volta, durante la licenza cosiddetta natalizia, sia la Procura Militare di Roma che il Tribunale Civile avevano avviato un'inchiesta e Marò sono stati sentiti. Peccato che il giudice italiano non sia andato avanti, perché così si sarebbe risposto anche a quelli che affermano che si vuol fare dei Marò degli eroi. No, sono delle persone che probabilmente hanno commesso un errore, forse hanno commesso un reato, però forse è obbligatorio dirlo, perché in realtà per ora non sono state prodotte prove al loro carico. Noi abbiamo mucchi di terroristi accertati all'estero che se ne stanno tranquillamente in spiaggia a prendere il sole, quindi non c'è mai reciprocità in queste cose. La saluto, professoressa Sciso, la ringrazio. Francesco, velocemente, un ascoltatore. Buongiorno, sì. Complimenti per la trasmissione. Allora, la cosa che volevo dire io è che probabilmente la nostra politica non è all'altezza della situazione. In secondo luogo, l'Europa dovrebbe aver fatto molto di più. E terza cosa, io sono sicuro che nel prossimo futuro, in caso di attacco di un pirata a una nave, diciamo, la scorta a questo punto potrebbe farli salire a bordo e presentargli la carta dei vini, insomma. La cosa, cioè, uno non può assumersi una responsabilità del genere. Lei dice che nessuno andrà mai più a fare la scorta delle navi con questo tipo di rischio. La conclusione, Fausto Biloslavo del Giornale, riguarda tutto quello che ha detto la professoressa. Sono cose che tu già sapevi, ma accrescono l'angoscia sul fatto che non è che ci sia una soluzione così limpida di fronte. Esatto, prima di tutto bisogna tenere alta la guardia proprio appunto sul rischio dell'applicazione di una legge che comunque prevede la pena di morte. Una via d'uscita c'è, forse il governo italiano ci sta anche pensando. Le teste di cuoio che vanno a prenderle il portan via, come nei film. No, quello no, l'India la potenza nucleare ci incenerirebbe un secondo. Ma è l'arbitrato internazionale, cioè dire non riconosciamo più la giurisdizione indiana, dato che ovviamente gli indiani non ammetteranno mai di far processare i Marò in Italia, allora ci rifacciamo al Tribunale del Mare dell'AIA, che è un tribunale delle Nazioni Unite, cioè nel senso funziona con le regole delle Nazioni Unite, e deciderà una terza parte chi è colpevole, chi è innocente, ma nel frattempo i Marò non finiranno nelle perché crisi. Licenze non gliele danno più di sicuro, a Natale infatti non se ne è parlato. Questo è sicuro. Tra l'altro, se si presentassero, anche la docente prima, l'esperta prima l'ha detto, se si presentassero in aula con questa legge antipirateria che prevede la pena di morte, e questa legge anche, come dire, potrebbe levarli la libertà provvisoria, la libertà supplementare. Andrebbero in un carcere indiano, che non è una cosa raccomandabile nemmeno al peggior nemico. Grazie, Fausto Biloslavo. A domani.